arriva. Sto bene, vivo peggio di prima. Vuoi darmi della merda? Prego, mettiti in fila. Ho imparato che la gente parla per invidia. Dottore, ascolti, si siede e scriva. Il cuore prende le peggio cotte e io c'ho un alter ego che mi gonfia di botte. Il sonno ti comporti le risposte di notte. Per me si fotte. Tu fallo solo, io lo faccio in compagnia. Anche con la prima che mi fa uscire di terapia. Che stia in sintonia, serena e così sia. Per un disco da pazzia, mi sigillo in casa mia. Due nuove bombe, io sono un'armeria. Sono l'unico antidoto per la tua malattia. Sputami addosso, chiamami Crumiro. Sogni la mia faccia, spera di non vederla in giro. Uno, due, tre, tu non mi salverai. Non ce la farai. 1, 2, 3, non c'è niente da fare. Io mi lascio andare. 1, 2, 3, tu non mi salverai. 1, 2, 3, tu non ce la farai. 1, 2, 3, non c'è niente da fare. Io mi lascio andare. Sto spingendo forte, piede troppo pesante. Cara, allaccia le cinture che qui perdi le mutande. Non sono un signore, tanto meno una donna. Però fai una brutta fine sul sedile posteriore. Stai attenta laggiù, ne chiedi di più. Se siamo a tu per tu, tipe positive, attive, creative, alternative. Ma sopra sotto, troppo passive. Faccio ciò che mi sento e non mi lamento. E se non mi rimetto e io se ci scommetto. Mi piace provare, sperimentare, pensare che un buon amico nel male non ti potrà lasciare. Ma qui non è così, sono fuori controllo. Mi rialzo più volte rispetto a quelle che crollo. Fagli un Tavor o paroxetina. Ho già assunto qualsiasi cosa tu mi prescriva. 1, 2, 3,